Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, 10 giornate alla fine, dunque 30 punti in palio. In testa rimane il Milan che ha una vittoria di vantaggio. Non dico due pareggi, che pure rappresentano esattamente i 4 punti di margine, perché in caso di arrivo a pari punti lo scudetto sarebbe della Juventus per i confronti diretti. Confronti diretti come quello di domani sera, per esempio l'ultimo di stagione in Coppa Italia, che vede certamente la Juve favorita, primo perché ha già vinto 2-1 fuori casa e dunque può permettersi anche una sconfitta per 0-1, secondo perché nei 3 confronti diretti di stagione è imbattuta con 2 vittorie, una in casa e una fuori e un pareggio. Restiamo al campionato, anzi prima ancora del campionato c'è questa curiosa notizia arrivata da poco, che racconta come la Roma impegnata stasera nel posticipo di campionato contro il Genoa all'Olimpico, la Roma ha siglato l'accordo con la Walt Disney, grazie al quale, si legge appunto in questa agenzia, il club utilizzerà le strutture di Orlando in Florida per allenarsi durante le pause del campionato italiano. Si tratta del primo passo, ha detto l'amministratore delegato, mi scappa un po' da ridere, sì, è involontario, non è che lo sto facendo apposta. È il primo dei tanti passi che faremo negli Stati Uniti, comunque la squadra della capitale sarà la prima squadra di calcio europeo a allenarsi in un parco dedicato a Topolino. Dicevo, restiamo meglio ancora al campionato e a qualche curiosità statistica di quelle che Franco Piattanide prepara ogni lunedì. Scelgo fior da fiore tra le più significative e certamente quella più forte riguarda la Fiorentina e i suoi rapporti non idilliaci come è noto con la Juventus. Perché? Ma perché lo 0-5 di sabato è la peggior sconfitta interna della storia intera della Fiorentina, fondata nel 27 e mai battuta per 5-0 sul proprio campo. E così facendo la Juventus diventa la squadra che ha inflitto alla Fiorentina la peggior sconfitta a domicilio, ma anche quella sul proprio campo, un 22 febbraio 52, un 8-0 in Juventus-Fiorentina, ed è la squadra, la Juve, che ha segnato più gol alla Fiorentina nella storia della Serie A, 234 gol. Se parliamo invece di Milan, il dato statistico più curioso riguarda i suoi avversari, il Parma che con Donadoni aveva avuto una eccellente reazione a quel deficit di rendimento degli ultimi tempi di Colombo, e invece adesso si è fermato perché non vince nella bellezza di 7 giornate con 4 pareggi e 3 sconfitte. Se poi andiamo a vedere a esaminare la classifica del girone di ritorno, ci troviamo qualcosa di davvero singolare, perché in testa c'è il Milan con 20 punti, ma al secondo posto insieme al Napoli a 18 c'è niente meno che il Catania. Catania che sta facendo una grande stagione, il suo tecnico Montella è certamente uno dei più seguiti della Serie A, non ha nemmeno 38, forse ha compiuto da poco i 38 anni, ma insomma in ogni caso non arriva a 40, che le partite e gli schemi li prepari, dimostrato da questo dato che Franco mi sottolinea, e qual è? È che su 36 gol segnati dal Catania, 20 sono da palla inattiva, compreso quello di ieri decisivo di Le Grottaglie contro la Lazio. Questo qualcosa vuole pur dire. Poi ci sono tanti altri numeri che mi tengo per più tardi e da alternare con i vostri interventi in diretta, come sempre, all'800 24 00 24, però adesso sentirei la voce proprio di Montella. Bisogna porsi dei nuovi obiettivi, perché sarebbe un peccato non approfittare di questo momento, di questa crescita che la squadra, anche i singoli, sta avendo, soprattutto i singoli stanno avendo, per finire degnamente questo campionato e per avere ancora, darci ancora qualche soddisfazione e dare ancora qualche soddisfazione ai nostri tifosi. Questo da martedì ce lo poniamo, questo nuovo obiettivo, che potrebbe essere quello di consolidare un ottavo posto, potrebbe essere quello di provare a fare qualcosa in più, però non possiamo sognare noi da parte tecnica, lasciamo sognare i tifosi, noi dobbiamo essere realisti e cercare di singolarmente di ottenere il proprio massimo e metterlo al servizio della squadra. 38 anni a giugno avrà Montella, quindi davvero un tecnico che sta bruciando le tappe dai giovanissimi della Roma, che allenava quasi un anno fa, insomma grosso modo un anno fa, alla chiamata sulla panchina romanista quando Ranieri lasciò, ed è appunto storia di un anno fa, a questa brillante stagione a Catania. Povera Fiorentina, scrive Diego, da strapparsi i capelli. Beh, certamente è un'annata molto difficile, di quelle che possono anche finire molto male. La Fiorentina di questi giorni, di queste settimane, ricorda molto da vicino la Sampdoria di un anno fa, con questa per ora rassicurante differenza, che ci sono squadre più staccate rispetto al gruppo che lo scorso anno lottava per la salvezza. Ma certo non è da star molto tranquilli, non è che possa lasciare molto tranquilli una caduta libera di queste proporzioni. Il Napoli continua a segnare nell'ultimo quarto d'ora di partita, ha segnato la bellezza di 15 gol già proprio nell'ultimo quarto d'ora, del record di questo campionato. Handanovic continua a parare rigori, ne ha visti calciare contro 14 nelle due ultime stagioni, 7 li ha parati, quindi al 50%. Poi è vero che quello di ieri, più che pararlo, l'ha raccolto, perché gli è bastato restare fermo, però è rimasto fermo. Quanti rigori entrano esattamente a centroporta perché il portiere ha battezzato un angolo e nel frattempo è partito senza magari nemmeno muovere i piedi di richiamo? Lui ha tenuto invece i piedi proprio ben piantati sulla linea, la palla di Cavani lì gli ha sbattuto, prima che poi Cavani invece indovinasse altre due traiettorie, la seconda delle quali proprio sul piede di Handanovic, no? Per dire che doveva andare così. Qualche altro spunto di giornata? L'Inter in condizioni, intanto non ha segnato per la quinta volta nelle ultime 7 partite, il terzo rigore su 6 sbagliato in stagione, non andava così male dal 2000-2001, dopo 28 giornate. Non solo, ma il caso Forlan mi sembra la spia di un malessere interno tutt'altro che da sottovalutare. Se poi vogliamo parlare di malesseri interni ed esterni, c'è il battibecco tra Branca e Oriali, di rara gravità direi, no? Trattandosi di due dirigenti o ex dirigenti. Sentiamo cosa dice Branca. Anche quando era qua, e qui c'è un'inesattezza di base, perché non è mai stato dirigente, non si è occupato mai di mercato, se non i primi 2 anni della mia gestione. Io sono qua dal 2003, non devo rispondere a niente, perché anche quando stavo qua non conosceva le cose della società esattamente come le conoscevamo io e il mio presidente. Questa era Branca. La replica di Oriali è arrivata a stretto giro di posta. Credo che abbia la memoria un pochino corta, anche perché lui sa che comunque molte trattative le abbiamo condotte insieme fino all'ultimo anno della cessione di Ibra al Barcellona, che è un'operazione che fece allora il presidente, e la fece anche bene. Non so come mai, cioè, forse sarà stata la tensione della partita, però al di là di questo, quello che più mi preoccupa di quel che ha detto, che qui non ho letto, è che ha dichiarato che sta già pensando al prossimo anno, e questo sinceramente mi preoccupa, spero che non sia così. Lui ha dichiarato che sta già lavorando per il futuro, speriamo che sia per un'altra squadra, non per l'Inter. Insomma, non è che se le stanno mandando a dire basta raccontare, basta, sfatiamo il mito che gli arbitri italiani sono i migliori del mondo, scrive un ascoltatore. Guarda, mai sostenuto niente di simile, quindi per me c'è ben poco da sfatare, c'è da preoccuparsi, questo sì. Campionato strano in cui in testa adesso vanno abbastanza forte, anche se non siamo certamente su punteggi record, parlo di Milan e Juventus. Subito dietro vanno piano, proprio vanno direi abbastanza piano, in coda si danno un po' i turni nel tentare le rimonte. Adesso per esempio ieri il Lecce ha perso un'occasione storica per arrivare a 3 punti dal Parma, un'occasione di quelle che insomma sarebbero imperdibili. Vinceva 1-0 dopo poco, ha sbagliato 2 gol, tra l'altro Bertolacci, entrambi facili, proprio solo davanti al portiere, e poi al primo contropiede, complice anche un'espulsione forse un po' severa, ma insomma che ci poteva stare. Insomma, si è fatta poi bloccare sull'1-1 da Palermo, e quindi il Novara, che invece ha vinto lo spareggio di Siena, adesso ritorna in corsa, dovendo domenica proprio affrontare il Lecce. Credo che Novara-Lecce domenica sia tutto sommato forse la partita più rilevante dell'intero campionato. Sentiamo Tesser. Sì, sì, condivido, due bellissimi gol, direi che il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, il secondo tempo è stato fatto veramente bene e abbiamo vinto con merito qui a Siena. Ma queste due partite, ma noi dobbiamo vivere la giornata, la classifica non possiamo guardarla perché altrimenti ci scoraggiamo, quindi dobbiamo pensare partita per partita e fare come abbiamo fatto con l'Udinese, che era un bellissimo clima allo stadio, tanta partecipazione, la grinta straordinaria di questi ragazzi, abbiamo vinto anche lì penso con merito, però adesso c'è il Lecce di Cerse che è lì davanti e dobbiamo avere quell'obiettivo di cercare di fare il massimo. Comunque quella di ieri è stata per il Novara la seconda vittoria consecutiva, cosa che in stagione non era mai riuscita ai novaresi e che per ritrovare in Serie A, cioè due vittorie consecutive, bisogna tornare indietro fino al 56, quando batté entrambe le volte per 2-0, prima il Bologna e poi il Napoli. Mi fa notare Franco Piantanida certamente che in ogni caso la cura Mondonico per la difesa ha funzionato, perché Tesser prima di essere esonerato aveva beccato Tesser, il Novara di Tesser ha beccato 40 gol in 20 partite, adesso sono due partite che non prende gol e quindi a qualcosa almeno il passaggio del mondo per Novara è servito. Una dichiarazione di Conte nella conferenza stampa di vigilia: domani sera contro il Milan giocheranno Storari in porta e Del Piero in attacco, perché sono certo che sarà la sua partita. Adesso ascoltatori che sono già collegati dalla provincia di Venezia, da quella di Salerno, da Brescia e da Reggio Emilia, preceduti soltanto da uno dei non so quanti sms, non riesco davvero a starci dietro oggi. Paolo da Treviso scrive: credo che Rocchi e Gava siano due arbitri davvero impresentabili. Io davanti a loro in questa galleria purtroppo metterei Russo di Nola, che secondo me per Russo di Nola davvero c'è l'aggettivo impresentabile, perché quello che ha combinato ieri a Cagliari non è che l'ennesima dimostrazione di inadeguatezza. Io sono certo che per Russo l'avventura nella Cannes, cioè l'avventura dell'arbitraggio in Serie A, finisce con questa stagione. Sarebbe auspicabile che non ci fossero altri danni da qui a fine stagione. Per gli altri purtroppo però c'è una casistica che sta diventando sempre più negativa. Nunzio ha chiamato la provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo parlare un attimo dell'Udinese, al di là dell'errore arbitrario, insomma, che è evidente a tutti allo sfogo di forzo, però mi sembra che un po' l'Udinese manchi un po' negli ultimi 15 minuti, sia col Milan che col Napoli, perché magari probabilmente anche in 11 contro 11 avrebbe pareggiato la partita. Mi sembra questo, insomma, che l'Udinese per essere una grande squadra deve stare concentrato, perché gioca un grande calcio per un'ora. E se riesce a concretizzare andare 3-4-0, allora riesce a mantenere il risultato, altrimenti è facile che venga ripresa, quindi forse questa è la grande pecca. La grande pecca è che se non avesse questi cali vincerebbe il campionato, insomma, che non è esattamente l'obiettivo e neanche la dimensione dell'Udinese. L'Udinese è oltre credo, no? le sue stesse risorse, anche per i giocatori che ha ceduto in estate, per le disavventure che ha avuto durante l'anno, compresi quei tre in Coppa d'Africa per un bel po' di tempo. Dopodiché, sì, certo, cala nel finale, magari calerà anche nel finale di stagione. Un tempo era abbastanza abituale, con l'eccezione dell'anno scorso, questo calo per le squadre di Guidolini. Staremo a vedere quest'anno se riaccadrà un'altra volta ancora. Nel caso di ieri, dire che è calato comunque, il Napoli avrebbe pareggiato comunque, beh, insomma, facciamolo restare in 11, non espelliamo in maniera abbastanza assurda, incomprensibile, un giocatore e quindi non costringiamolo all'inferiorità numerica per due sciocchezze, perché entrambe le ammonizioni a Fabbrini sono state combinate per due sciocchezze che solo un arbitro nevrotico o protagonista ad ogni costo come Rocchi poteva sanzionare. E poi magari ne riparliamo. Raffaele, provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io sono un pochettino non d'accordo con quello che dice lei effettivamente sull'arbitro, perché comunque il presidente Pozzo cercava appoggio nel dopo partita dai media di Sky, praticamente, che non c'è stato. Quindi io non ho visto un cattivo arbitraggio nei confronti dell'Udinese. secondo me c'era la prima munizione e anche la seconda che se l'è cercata, tutto qua. Vabbè, allora lei evidentemente la pensa in maniera diversa. Mi piacerebbe sentire la sua opinione nel caso quelle due munizioni le avesse subite Aronica e fosse uscito Aronica, ma può scegliere, Ingler, può scegliere. E poi sarei curioso di sentire la sua opinione, ripeto, se anziché uno dell'Udinese avessero mandato fuori per due, ripeto, sciocchezze come quelle in una partita così tirata, perché allora non... qualche minuto dopo, perché non punire seriamente Pinzi per quel fallaccio che ha fatto? Perché a San Siro, l'arbitro di San Siro, non concede all'Inter quello che c'è da concedere, perché probabilmente subisce il fascino di San Siro, ma poi non ha il coraggio tecnico di espellere Cigarini per un fallo da dietro, che chiaramente era veramente un fallo da espulsione diretta, che se non si espelle per quelle pedate lì da dietro così pericolose, tra l'altro non si espelle più. E io credo che sia un momento di crisi tecnica abbastanza grave per la classe arbitrale, e credo anche che ci sia nelle società che più hanno strillato in queste settimane, ci sia una responsabilità grave, perché sempre c'è un nesso tra gli errori arbitrali e la loro destabilizzazione preventiva. Elton ha chiamato da Brescia, buongiorno. Elton? Sembrava un nome un po' così, vede che Elton, no, non voglio arrivare a cosa, ma insomma Elton non è proprio un nome bresciano, mettiamola così. Poi cerchiamo di recuperare questo collegamento, che ci facciamo spiegare, ci facciamo raccontare per curiosità le origini. Luigi, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Ganzi. Di che? Volevo chiedere una sua opinione di nuovo su un famoso interista reggiano. Volevo chiederle, io non sono assolutamente d'accordo con i tifosi interisti che hanno scritto su Fiscione presidente incompetente e assente, perché la famiglia Volerati noi dobbiamo soltanto ringraziarlo per quello che ha fatto all'Inter, sia dagli anni 65 che negli anni dal 95 fino adesso, e speriamo a oltre. Perché dal 65 al 95 l'Inter ha vinto più scudetti e poco altro. Per cui non c'è niente da rimproverarci, se per un anno noi non riusciamo più a vincere niente, bisogna andare avanti. Purtroppo nel mondo bisogna essere cattivi, perché essere buoni, la gente ti viene dietro. Io non solo faccio parte di quelle persone che criticano il presidente Moratti, certo, non Luigi, questo sì questo è molto chiaro. Guardi, lei ha detto che non sono d'accordo con quello striscione, non sono mai d'accordo con gli striscioni, cerco di non leggerli e non faccio nemmeno molta fatica negli striscioni di quel genere, non leggo più nemmeno i comunicati del bimbo Filippo, che continua a farmi sempre più pena, povero bambino, no? Lui e chi ne ha fatto una macchietta, e quindi insomma è meglio che ciascuno ragioni con la propria testa senza bisogno di sovraesposizioni mediatiche, particolarmente di cattivo gusto trattandosi di minori in questo caso. Torniamo a sentire, per esempio Pozzo, sentiamo che cosa ha detto il furibondo presidente dell'Udinese sul conto di Rocchi. Abbiamo superato la misura, no? Domenica scorsa è andata come è andata, ok, questa partita è stata condizionata, diciamo, dal 2-0, 2-2, questo qui il 2-2 è stato condizionato totalmente da errori arbitrali, da un arbitro totalmente fuori condizione, ecco, non aggiungo altro. Mi sembra che non sia il caso di aggiungere altro, mi sembra che sia più che sufficiente. Pozzo non è nuovo a queste sparate, ma è vero anche che alla seconda domenica consecutiva in cui la tua squadra viene penalizzata da errori piuttosto evidenti, piuttosto grevi, domenica scorsa era capitato a Novara, niente meno, dopo il Novara e il Napoli, insomma, un minimo, cioè, si lamentano tutti anche quando non sarebbe il caso. È normale che possa accadere quando invece perlomeno i presupposti ci sono. Elton, rieccolo da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno Garantino. Dica. Scusi per la linea che è caduta. Prego. Ascolti, io devo fare un augurio grandissimo al Milan, che ha fatto due belle partite col Barcellona. Sì. Dopodiché faccio una riflessione sulla Roma, su quello che lei ha detto prima. Quando la Roma è passata di mano dai Sensi all'americano, qualche dubbio ce l'avevamo un po' tutti, insomma. Però sembra che questo qua voglia fare un po' una specie di mercato non alla italiana, ma partendo dalle basi. Mi spiego. Essendo io genitore, tutto quello che chiedono i miei bambini io lo do. Questo qua penso che mandando la Roma alla Disney Park di Orlando, in America, insomma, può darsi che sia anche un'azione ben uscita di mercato, insomma. Sì, mercato nel senso di marketing, nel senso di sì, è chiaro che questa nuova gestione romanista qualcosa di innovativo avrebbe portato. Se pensiamo a quali erano i contatti, no, di cui si è letto in questi giorni, che la vecchia gestione romanista aveva anche con certi ex giornalisti, insomma, sinceramente ben vengano i Topolino, Minni e dintorni. Dopodiché qualche perplessità iniziale in attesa di vedere poi come si realizzerà davvero questo accordo, mi sembra che ci possa anche stare. Durerà 6 anni questo accordo di cui vi dicevo, della Roma come partner ufficiale della Disney. Le strutture di questo complesso sportivo sono impressionanti, ha raccontato Franco Baldini, direttore generale della Roma, e stiamo parlando, lo ricordo a chi si fosse collegato soltanto più tardi, stiamo parlando delle strutture di Orlando, del centro sportivo Topolino, insomma, per capirci. L'opportunità di venire a allenarsi qui in inverno, ha aggiunto Baldini, in questo posto che ha un clima fantastico, sarà davvero di gran vantaggio. Beh, se cominciamo a parlare di sosta invernale ci si capisce magari meglio, fermo restando che la sosta invernale della prossima stagione non è detto che sia poi così ampia che consenta chissà quale periodo da trascorrere a Orlando da Topolino. Roberto ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Volevo un suo parere riguardo a un comportamento tenuto da Conte sabato durante la partita Fiorentina-Juventus nei confronti di Del Piero, perché a questo punto io mi chiedo se esiste un caso Del Piero, nel senso che io ho trovato assolutamente sconcertante che sul 3-0 abbia sostituito prima Matri con Quagliarella, che poi ha fatto meno di quello che aveva fatto combinato Matri, ma poi sul 4, sul 5-0 la sostituzione di Boriello con un Del Piero in panchina inquadrato un paio di volte con un'espressione. Io penso che un campione come Del Piero meriti un trattamento diverso da parte della società. E io non la seguo invece, proprio perché la Juventus sta vincendo 3-0, 4-0, 5-0, mi pare che Del Piero meriti di entrare, semmai, adesso non dico sotto di 3 gol, anche perché la Juve non è capiti spesso, ma insomma Del Piero merita di entrare, un campione come lui per l'appunto, proprio per rispettarlo, merita di entrare finché c'è qualcosa da risolvere, non quando c'è da fare una passerella della vecchia gloria. Conte ha annunciato che domani sera Del Piero sarà titolare, questa mi sembra una forma, questa e non quella che lei invoca per l'altra sera, una forma di rispetto nei confronti di un campione. Davide Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei intervenire in merito alla polemica Branca-Oriali. Ecco, la mia opinione è che il mercato si può sbagliare 1 o 2 anni, ecco, non è una cosa impossibile, penso che sia difficilissimo azzeccare sempre tutti i giocatori, però in un momento delicato come quello che sta vivendo l'Inter, buttare benzina sul fuoco di una polemica come questa, che fa solo male in un momento come questo, sia molto più grave di sbagliare 1 o 2 mercati o anche 3 come ha fatto Branca. Insomma, per questo motivo credo io penso anch'io. Che non meriti. Credo anch'io, la condivido in pieno. Secondo me questo è un errore strategico grave, esattamente quello che lei ha sottolineato, dato il momento che temo qualifichi, se non in tutto almeno in parte, la statura dirigenziale di una persona o di un manager che dir si voglia. Più serio comunque mi sembra il caso Forlan, perché che Ranieri, sentiamo Ranieri, che questo suo racconto del abbastanza curioso, per non dire qualcosa di diverso, sul dopo partita di ieri. Il presidente è sceso nel primo tempo, ci ha incitato, per cui sappiamo quello che stiamo facendo, non è una stagione facile, lo vediamo tutti, però io ai ragazzi non gli posso rimproverare nulla. Sapevamo che nel secondo tempo avremmo pagato la fatica di Champions League contro un Atalanta che gioca in quella maniera, si richiude bene, riparte in contropiede. No, non si è rifiutato, era una cosa tattica che io stavo parlando con lui e non si è rifiutato. Quando vengono agli allenamenti si impegnano da da morire, che poi la partita non riesce a svilupparsi come vorremmo, lo sappiamo, lo vediamo, ci sono gli anni che tutto ti va bene, ci sono gli anni come questo che tutto ti va male. Allora come sarà? Si sarà rifiutato davvero di entrare, come è stato scritto, come trapelato a fine partita Forlan ad un certo punto, oppure come dice, oppure prestiamo fede a Ranieri che dice non è vero che si è rifiutato, era una situazione tattica diversa. A me la prima versione sembra più credibile, anche perché un Forlan nell'Inter ha combinato poco fino adesso, anche a causa infortuni eccetera, ma insomma se uno si vede preferire Zarate, io credo che sinceramente gli possa anche venire l'istinto di dire dopo Zarate, ma insomma forse è meglio che ne parliamo un'altra volta, no? Credo che sia abbastanza umano reagire così, perché dopo Zarate vuol dire proprio dopo niente, perlomeno in questa stagione interista. Quindi insomma, mi sembra più credibile questa versione che prevede, che contempla, come adesso non voglio dire l'ammutinamento perché non esageriamo, ma insomma comunque un rifiuto abbastanza serio da tanti punti di vista. Quando lo fece Panucci con Lippi, insomma, venne fu qualche anno fa, decine di anni fa, venne fuori un discreto polverone. Vincenzo da Salerno, buongiorno. Salve, buongiorno dottore, complimenti per la trasmissione. Ma qua dottore, Vincenzo, parliamo con le minuscole. Senta, io innanzitutto volevo intervenire soprattutto per l'Inter, perché penso, da appassionato di calcio, in questo caso dell'Inter, come è finita l'epoca di Calciopoli e le squadre si sono rinforzate, è venuta fuori di nuovo quella vecchia Inter dove riempiono le pagine di giornali, che per me di queste cose sono vergognose. Vuol dire che il presidente dell'Inter, il signor Moratti, non è l'uomo forte della società e si circonda di persone che lo sono altrettanto, perché è impossibile prendere giocatori tipo Guarin, che è infortunato, tipo Poli, cioè Forlan. La squadra andava rinnovata quando all'epoca lo diceva il signor Benitez. Benitez aveva detto all'epoca che questa squadra doveva essere rifondata. Allora io vedo di nuovo l'incompetenza del presidente Moratti, che si circonda di persone incompetenti che probabilmente non capiscono di calcio. Perché è inaudito che Vince, il messaggio è arrivato forte e chiaro, lei usa le maiuscole, usa anche questo tono vagamente stentoreo, le garantisco che abbiamo capito. Più stentori sono i toni e più mi viene voglia lunedì di andare a pescare la rubrica di Antonio Di Pollina su Repubblica, Schermaglia in questo caso, che è un viaggio a ritroso tra le amenità televisive della domenica in questione, cioè quella di ieri nel nostro caso. Allora, uno dei capitoli di oggi è: al 90° minuto irrompe l'esperto Adriano Bacconi e si mette a spiegare lo schieramento che dovrebbe usare il Milan per battere il Barcellona. Franco Lauro, che è il conduttore, ; Allegri sarà sicuramente davanti alla TV e avrà ascoltato. Chiudo le virgolette e giuro, alzando la mano destra, che l'ha detta davvero, perché ieri purtroppo, causa un disguido di collegamenti, posso testimoniare che ha detto davvero questo in tono serio il conduttore. E Boniek a quel punto dice sì, sta prendendo appunti, ha cominciato a ridere, scrive Di Pollina, e non è riuscito a smettere di ridere per un minuto buono. Secondo me è riuscito anche a calmarsi abbastanza presto, perché si poteva andare avanti a ridere anche di più, onestamente. Gian Piero Pavia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Due cose volevo dire. Io sono un tifoso interista, no? Sugli arbitraggi. A parte che ieri in Inter-Atalanta è stato negato un mega rigore all'Atalanta, che non lo so come l'arbitro non l'abbia fatto vedere per Il rigore. Infatti è abbastanza strano. Facciamo strano, va. Famolo strano. Non lo so, anche perché era abbastanza vicino, cioè nel senso io sono caduto dal divano e ho detto lì, un altro rigore. Lei era più lontano quindi dell'arbitro, no? Però l'ha visto. Invece Rocchi, no? Se non sbaglio, in Inter-Napoli arbitrava Rocchi. E come no? Mi sembra che questo arbitro influisca spesso sul risultato. Sì, temo proprio di sì. Infatti Rocchi, secondo me, è... e a sua volta fossi io, intendiamoci, poi per fortuna sono io, sarebbe un altro arbitro su cui riflettere sulla dismissione proprio dalla cosa, perché con molti rimpianti e quindi probabilmente non lo faranno, però è un arbitro che è un arbitro che fa 2, 3, 4 partite magari bene o benissimo e poi di colpo, ma ciclicamente però, e, insomma, cade in una flessione di rendimento veramente, veramente strana e sempre un po' interpretata in maniera, come dire, da protagonista ad ogni costo eccetera, che è diverso dal caso di Russo, quello che ieri ha fatto danno a Cagliari, anzi ha fatto danni al Cesena per la verità, ma insomma in quel di Cagliari, che invece ha un andamento più lineare, nel senso che non ci becca praticamente davvero mai, e credo sia lecito domandarsi in questo caso perché ancora debba restare, ripeto, in queste ultime partite, perché io penso che con la stagione che ha fatto quest'anno, che si somma oltretutto alle precedenti, immagino che a fine stagione Russo Danola cesserà di far danni in Serie A. 19 marzo, giorno di San Giuseppe, vediamo che cosa ha trovato Nicola Filippone. Sembra ieri. 19 marzo 1966, Parigi, Parco dei Principi. La nazionale di Fabbri sfida in amichevole la Francia in una gara di avvicinamento ai mondiali inglesi. Finisce con un deludente 0-0. L'attacco azzurro, formato da Domenghini, Rivera, Mazzola, Corso e Riva, non riesce in alcun modo a superare la retroguardia francese. Nella ripresa c'è spazio anche per un ragazzo di talento che si sta mettendo in luce nel Torino. È Gigi Meroni che fa così il suo esordio in nazionale, esordio che sarebbe avvenuto alcuni mesi prima contro la Polonia se l'ala granata non avesse rifiutato di tagliare i capelli come da diktat del commissario tecnico. In azzurro Meroni disputerà 6 gare segnando 2 gol. Chi arbitra Milan-Juve? Juve-Milan, domanda Stefano. Orsato, se ho letto bene, arbitra Orsato, che certamente è, se non il miglior arbitro di stagione, certamente uno dei migliori, dei più affidabili e rassicuranti, ma già quando era giovane si vedeva che sarebbe cresciuto, aveva tutti i presupposti per diventare un signor arbitro. Adesso abbiamo 2 ascoltatori consecutivi dalla Spezia, questo è curioso perché insomma è una buona concentrazione, una buona rappresentanza percentuale. Gennaro dalla Spezia, buongiorno. Garanzini, buongiorno. A lei. Io sono un suo ascoltatore fedele, devo dire, abbastanza fedele. Beh. Però questa volta mi dispiace, ma non sono d'accordo con lei. In quanto è anche arbitro, per la verità, è anche ex calciatore. Sono un incallito difensore degli arbitri, perché guardo un po' il calcio oltre Alpe e mi accorgo che la nostra categoria arbitrale è molto molto superiore, quindi diciamo che abbiamo poco da recriminare rispetto alla qualità che c'è all'estero, ed era questo che le volevo dire. Nel caso specifico di Udinese Napoli, io sinceramente tutto questo scandalo non è che l'abbia visto. Scandalo, sì, quel fallo di Pizzi l'ho visto anch'io, probabilmente non l'avrà visto Rocchi. Ma io non ho parlato di scandalo. Di scandalo lascio che parli Pozzo, no? O Conte o questi specializzati in scandali, io non mi permetto. Dico però che ci sono delle risultanze negative ormai croniche a carico di qualche arbitro. Dopodiché no, effettivamente la pensiamo diversamente sulla carattura degli arbitri italiani, che insomma, io quando sento che gli arbitri italiani sono i migliori d'Europa ho la stessa reazione di quando qualche anno fa, adesso più perché non si ha più il coraggio di dirlo, che il campionato italiano era il più bello del mondo. Ho sempre pensato che non fosse vera né l'una né l'altra affermazione. Grazie comunque del suo intervento. Secondo lei, domanda Stefano da Ravenna, quanto dura Panucci a Palermo con Zamparini? Credo che la risposta sia già incorporata nel messaggio. Un altro spezzino, provincia della Spezia. Domenico, buongiorno. Dico Garanzini, buongiorno. Buongiorno a lei. Intanto volevo fare i complimenti al Catania, a Montella, alla società tutta intera per il gioco che hanno espresso, che stanno continuando a esprimere in questo campionato. Io sono sincero, cioè per quello che hanno speso, per quello che hanno fatto a livello di mercato, di società, con il centro che hanno piano aperto e tutto quanto, io oltre a questo ho visto un gioco posso dire, brioso, fatto di tecnica, di carica agonistica positiva, mai un fallo, mai mai un fallo sarebbe grave, perché con mai un fallo non si va lontano, però certamente una squadra andare a giocare a Catania, che magari c'è stato qualche periodo in cui il Cibali, ma come altri campi di provincia, era temibile anche da un punto di vista di furore agonistico. Adesso invece al Cibali con regnante Montella si va a subire magari una lezione non di agonismo ma di calcio, insomma, senza esagerare, però insomma, il Catania di quest'anno gioca davvero un bel calcio, organizzato, piacevole e divertente. Vanni da Cuneo domani dice: ma mi commenta il gol di Messi, perché io non ho più parole. Guardi, i gol di Messi non si commentano, in genere i gol di Messi si benedicono, no? Per quello che rappresentano, non tutti, ma nella larga maggioranza dei casi. Certo che quel tunnel con un colpo di esterno dell'altra sera, tra l'altro il difensore del Siviglia non è che avesse le gambe particolarmente aperte, cioè il pallone ci passava proprio di giustezza. Il tunnel gliel'ha fatto con un colpetto di esterno uscire verso l'esterno dell'area, e poi da lì già che c'era questo colpo sotto che è andato proprio all'incrocio dei pali. Si possono raccontare, ma commentare no, perché qualsiasi commento sarebbe inadeguato. Francesco Latina, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Sento, volevo tornare un attimo indietro sul discorso di Napoli-Udinese di ieri, per poi riallacciarmi sulla esternazione di Pozzo. Rapidamente. Nel senso, sì, secondo me l'espulsione purtroppo per il giocatore c'era, perché vedendola così in modo asettico, un fallo intenzionale perché la palla era lontana, da dietro, durante una ripartenza, secondo me l'ammonizione c'è tutta. Sì. Però questo per dire che poi purtroppo Pozzo si è fatto trascinare da una moda che ultimamente va, ma da un po' d'anni, dove se si critica l'arbitro in modo così diretto e pesante, purtroppo, ed è vero secondo me, nelle giornate successive qualche vantaggio c'è. Quindi vorrei chiudere con una provocazione: deferire tutti coloro che parlano male degli arbitri, tutti tesserati, è una provocazione, spero che non lo facciano. No, ma non è una provocazione, Francesco, perché li deferiscono, ma non serve assolutamente a nulla. Cerchiamo semmai una misura un po' più greve, se vogliamo seguire questo percorso. Premesso il fatto che Fabbrini ieri sera, secondo me, non meritava nessuna delle due ammonizioni. Alberto, Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Gigi, sempre un piacere parlare con lei. Intanto volevo sapere la sua opinione sul secondo gol del Milan, cost to cost, diciamo, con la finta di Ibrahimovic, che dicono si disinteressa del pallone, ma lui apre le gambe facendolo passare sotto, lascia scorrere. A me sembrava, insomma, che il pallone non se ne fosse proprio disinteressato. Da regolamento attuale è corretto. L'interpretazione di oggi, che piaccia a me o che piaccia a lei, che noi siamo d'accordo o meno, è un'interpretazione corretta dal punto di vista arbitrale, ripeto, per l'interpretazione che si dà oggi a fuorigioco. Poi? E poi un'altra piccola cosa, io l'altra sera, sentendo un'intervista a Guardiola, ho capito perché in Spagna escono molti giovani e in Italia no, nel senso che lui diceva di seguire personalmente le partite della primavera, diciamo, del Barcellona, certo, e di far allenare questi ragazzi con i suoi campioni, cosa che in Italia non accade poi così spesso, Alberto. Però guardi, continuiamo domani questo discorso in compagnia di Fabio Tavelli. Adesso devo davvero chiudere per ragioni di tempi. Grazie a Nicolò Rinaldi in regia, Franco Piantanide in redazione, buon pomeriggio.